Freestyle Carnice P. Volume 2. Posso andare avanti quanto voglio anche se tutto fa male. Posso continuare perché questa merda la sopporto uguale. Mi dici calmati Ale, non puoi farcela più. Non puoi farcela più, no più. Alcuni mi dicono che ormai sto perdendo il controllo. Mi guardano negli occhi e mi dicono che sono già morto. E lo so da solo, grazie, fatti i cazzi tuoi. Ho lo stomaco come lo senti su Marte. Un altro capitolo fantastico da vivere insieme. Il volume 2 che ti devi pompare tutte le sere. Mi dite che questo non è freestyle e che lo leggo. Io invece sto rappando a caso, tu supponi il peggio. Parto senza argomento, ti colpisco sgomento. Fottuti Pokémon finiscono in ogni mio testo. Non perché sono un flippato della madonna puttana, perché la mia infanzia per quanto fosse bella era amara. Ho vissuto nell'ingenuità per troppo tempo. Ero spento perché ragionavo con la testa di un altro, che bello. Ho rastrellato merda e me la son trovata ai piedi. Adesso è giusto che nella mia stessa merda io anneghi. Ancora argomenti da esporre sono infiniti. Ascolto il rap da quando tutti pompavi i testi di Willy. Un pandemonium in testa e 7 peccati li ho barrati. Me ne serve un ottavo perché quelli li ho terminati. Posso andare avanti quanto voglio anche se tutto fa male. Posso continuare perché questa merda la sopporto uguale. Mi dici calmati Ale, non puoi farcela più. Non puoi farcela più, no più. Alcuni mi dicono che ormai sto perdendo il controllo. Mi guardano negli occhi e mi dicono che sono già morto. E lo so da solo, grazie, fatti i cazzi tuoi. Ho lo stomaco come lo senti su Marte. Essa crew non è quella che mi aspettavo di avere. Composta da chi amici che non supportano il loro mestiere. Sono al centro e tiro le loro fila. Fai la fila, sono possessivo, questa gente è solo mia. Ho speso molto tempo in mezzo ai social network. Tanti tipi di persone, dalle marce a quelle peggio. Da chi se la tira solo perché 100 like. Perché là sopra è qualcuno e fuori non lo sarebbe mai. Individui apatici, altri simpatici ma depressi. Trovi chi si taglia, chi fa gara, chi possiede più tagli. Chi invece sta tranquillo e per i cazzi suoi. Spesso è colui che fa pugni con la vita più di Rocky. Chi ammira la figa più di una divinità assoluta. Ogni riferimento è puramente casuale, chiedilo a Luca. Chiedi a Amy Audio, altra gente di quel tipo. Che se gli stai vicino già senti odore di fallito. Posso andare avanti quanto voglio anche se tutto fa male. Posso continuare perché questa merda la sopporto uguale. Mi dici calmati Ale, non puoi farcela più. Non puoi farcela più, no più. Alcuni mi dicono che ormai sto perdendo il controllo. Mi guardano negli occhi e mi dicono che sono già morto. E lo so da solo, grazie, fatti i cazzi tuoi. Ho lo stomaco come lo senti su Marte.